nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce canuto, ma nasce canuto. L'uomo, bambino, l'anno canuto, nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce l'anno, ma nasce canuto. Nasce l'uomo, ma nasce bambino, nasce